aspetta. Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E buonasera da Risto Radio Convento. Io sono Valentina e sono in compagnia di Rebecca. Ciao Rebecca, ti vedo molto giovane, quanti anni hai? 13. Wow, cosa fai di bello? Studi? Cosa studi? Sono in terza media. Wow, quindi come ti stai trovando stasera al convento? Bene, dai. La prima volta che vieni? Sì. Wow, vedo i tuoi genitori che ti guardano. Sì, ci vedo, mi sento molto osservata da fuori. Cosa mi racconti di bello? Sono stata qua stasera a mangiare. Sì? Mangiato un buon risotto. Ma dai, buono, dai allora. Noi siamo qui, questo è un confessionale, come il confessionale di Grande Fratello. Questo è il confessionale di Grande Sorella. Quindi io sarei la sorella del Grande Fratello, tra parentesi. Tu cosa dici? Vedo tua mamma che ci guarda lì fuori con degli occhioni. Sì. E cosa hai deciso di continuare per la scuola dopo la terza media? Vorrei fare il liceo linguistico. Wow, bello! Ti piacciono allora le lingue? Sì, soprattutto il francese. Wow, io sono negata con le lingue, per questo ti chiedo. Va bene, allora io ti lascio, che tua mamma vedo che ci sta guardando lì fuori, che vorrebbe stare anche lei qui dentro con te, giusto? Sì, sì. È curiosa di sapere come va qui dentro. E come si chiama tua mamma? Patrizia. Va bene, allora gli facciamo un saluto a Patrizia, cosa dici? La saluti? Sì. Ok. Ciao mamma! E gli vogliamo fare una dedica, poiché siamo qui già in diretta. Così gli vogliamo dire due paroline. Grazie per tutto. E invece al papà, che adesso non lo vede. Ah, è lì sempre a riprenderci. Cosa gli vogliamo dire? Grazie. È sempre divertente. Va bene, allora io ti ringrazio per essere stata qui con me e ti lascio un buon proseguimento. Alla prossima, va bene? Sì, ti ringrazio allora, ciao.